boge. Dime così. Fue lo nuevo ve. Dime così. Voy a bombato. Y que se lupe. Bato a tele navigue. Dime così. Tu otara. Gouverna el la casse. On le si tia. Bato lo mundo Oh,